Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Non c'è davvero mai pericolo di annoiarsi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Al di là che sempre sentire Effetto Notte porta, diciamo, un certo beneficio, ma anche perché ci sono sempre ogni giorno cose nuove, soprattutto dalla politica italiana. L'avrete senz'altro sentita l'ultima frase a effetto dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi: i miei figli si sentono perseguitati come gli ebrei al tempo del nazismo. Di questo parleremo fra le altre cose, fra i tanti argomenti di questa sera, e c'è anche la possibilità di fare i vostri commenti liberamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte, effettonotte_Roberta Giordano, è quella originale. E poi naturalmente sono tanti temi, ma come sempre a quest'ora, nella prima parte, vi ricostruisco sinteticamente la giornata. Allora, iniziamo nella politica italiana con il PD. Da lunedì, dopo le polemiche sulle tessere gonfiate, stop al tesserimento se tutti i candidati sono d'accordo. Ve l'ho detto, Berlusconi parla della sua situazione, dice: i miei figli si sentono come gli ebrei sotto il nazismo e le comunità ebraiche esprimono sdegno. Al processo d'appello la Vito l'ha condannato a 1 anno e 4 mesi fuori dal carcere dal 2 dicembre. Ci sono nuovi sviluppi sulla morte di Arafat. È altamente probabile che l'ex leader dell'OLP sia stato avvelenato, lo rende noto il rapporto di un laboratorio di Ginevra incaricato degli esami. E poi il calcio, questa sera esame in Champions per Napoli e Milan. E partiamo adesso con l'approfondimento delle notizie, in particolare da questa notizia che riguarda appunto la morte di Yasser Arafat, l'ex leader dell'OLP. È altamente probabile che Arafat sia stato avvelenato, lo rende noto il rapporto di un laboratorio di studiosi svizzeri di Ginevra incaricato degli esami, che ha registrato dei livelli di polonio 18 volte superiori alla norma sul suo corpo. Questo lo riferisce la TV araba Al Jazeera. E passiamo alla politica italiana. In primo piano il caos tessere nel PD. La segreteria del partito ha condiviso la riflessione del segretario Guglielmo Epifani e ha proposto lo stop del tesseramento. Stop al tesseramento, ma solo con il consenso di tutti i candidati. Questa è la proposta della segreteria nazionale del PD, appoggiata dallo stesso Epifani, per porre fine al caso dei presunti tesseramenti gonfiati dell'ultimo minuto. Le iscrizioni dovrebbero essere bloccate da lunedì, nel momento in cui si aprirà la seconda fase congressuale. Ma Pittella e Civati si sono già detti contrari. Sostenitore della proposta è invece da sempre Cuperlo, mentre per Renzi, se vogliono bloccarlo, dice: lo blocchino pure. Accetto le proposte altrui, l'importante però che si torni a parlare di cose concrete. Intanto Epifani fa sapere che i congressi si sono svolti in modo regolare e laddove così non è stato ci saranno sanzioni. Intendiamo procedere in assoluta trasparenza rispetto a fenomeni che, dove si sono prodotti, sono fenomeni che fanno male all'immagine del partito e anche alla sua funzione politica. Altro capitolo spinoso: i risultati delle elezioni dei segretari provinciali. Epifani tenta di allentare il braccio di ferro tra Cuperlo e Renzi, affermando che in questa fase non è possibile attribuire con certezza gli eletti a questo o a quel candidato, perché non c'è un rapporto tra le due competizioni. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E sul versante del PDL c'è la polemica che è stata innescata dalle parole, come vi dicevo, Silvio Berlusconi a proposito della sua famiglia. I miei figli, ha detto, si sentono come gli ebrei sotto il nazismo e subito è stato espresso sdegno dalle comunità ebraiche italiane. I miei figli si sentono come dovevano sentirsi le famiglie ebree in Germania durante il regime di Hitler. Ci stanno tutti addosso. Fanno discutere le parole di Silvio Berlusconi contenute nell'ennesima anticipazione del nuovo libro di Bruno Vespa. Nell'intervista il cavaliere dice anche di non avere nessuna intenzione di lasciare il paese e di sentirsi italiano al 100%, ma è il suo paragone storico ad alimentare reazioni indignate. Per l'unione delle comunità ebraiche e italiane è un'offesa alla memoria di milioni di morti. Il leader di Selvendola parla invece di banalizzazione agghiacciante. Da 20 anni Berlusconi ci racconta la favola della persecuzione e oggi, anziché chiedere scusa dopo la condanna per frode fiscale, si avventura in un paragone agghiacciante con una tragedia come l'Olocausto, aggiunge il democratico Leva. Polemiche che spostano in secondo piano, almeno per qualche ora, lo scontro fra falchi e colombe del Popolo delle Libertà, ma anche quello andato in scena al Senato, dove oggi il PDL ha contestato il presidente Grasso secondo il quale i messaggi pubblicati sui social network dal grillino Crimi non hanno inficiato la regolarità del voto della giunta di Palazzo Madama sulla decadenza del cavaliere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E di questo, come vi avevo anticipato prima, parleremo dopo col presidente delle comunità ebraiche italiane. Adesso spostiamoci sul fronte economico. Il termine per gli emendamenti alla legge di stabilità, inizialmente previsto per domani mattina, slitta invece a sabato prossimo alle 12. Lo ha deciso la Commissione Bilancio del Senato, che tornerà a riunirsi sul provvedimento martedì prossimo. Tra le ipotesi allo studio per individuare maggiori risorse da destinare alla manovra c'è anche quella di spingere più di quanto già previsto sulle dismissioni di immobili pubblici, ma sul piano pratico a riempire ancora la scena c'è l'IMU. La seconda rata dell'IMU non si pagherà, è un impegno assunto con il Parlamento e con gli italiani che verrà mantenuto. Parole del vice premier Angelino Alfano, che così ha gelato il ministro dell'economia Saccomanni, che aveva fatto notare quanto non sia facile reperire le risorse per arrivare ad un simile obiettivo. Un'uscita che ha provocato la sollevazione di altri esponenti del PDL, come Renato Brunetta, che ha parlato di dichiarazioni avventate che incidono negativamente sui consumi. Fatto sta che ancora non è chiaro come si riuscirà a reperire i 2 miliardi e 400 milioni di euro derivanti dal mancato incasso della seconda rata IMU. Il piano è attingere dal gettito proveniente dalla rivalutazione delle quote di Banca Italia in mano alle banche, gettito che però ancora non è stato quantificato. E mentre il PD invita il PDL a pensare alla stabilità politica, presupposto imprescindibile per far calare la pressione fiscale, le larghe intese, dopo il caso Cancellieri, tornano a vacillare sul filo della legge di stabilità. La scadenza per la presentazione degli emendamenti da giovedì è stata posticipata a sabato 9 novembre per concedere più tempo alla messa a punto delle proposte di modifica. In serata, tra circa un'ora, alle 20, Enrico Letta parteciperà all'assemblea dei parlamentari del PD proprio per discutere delle modifiche al disegno di legge. Il premier ha dato la sua disponibilità a partecipare ad analoghi incontri di PDL e Scelta Civica. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sentiamo adesso invece l'analisi di Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, che dice: il fatto che l'inflazione diminuisca nonostante ci sia stato un aumento dell'IVA significa che siamo in una situazione di vera e propria deflazione. Lo ha detto in conferenza stampa a Bruxelles. Sentiamolo. C'è un segnale molto negativo, che nonostante l'aumento di un punto IVA, avete visto gli ultimi dati dell'inflazione segnano un'inflazione in calo, quindi neanche l'incremento dei costi tramite l'IVA ha portato a inflazione. Questo significa che siamo in una situazione di vera e propria deflazione preoccupante. Quanto alla cassa integrazione, le ore della cassa integrazione nel mese di ottobre sono calate grazie al crollo della cassa integrazione in deroga, cioè un meno 58,7%. Questo lo rileva l'INPS, che rivela come nel complesso sono stati autorizzati alle aziende interventi per quasi 91 milioni di ore di CIG, con un aumento per l'ordinaria e per la CIG straordinaria, mentre gli interventi in deroga, come appunto abbiamo detto, crollano. E si è chiusa con 22,7 miliardi di euro di sottoscrizioni la quinta edizione dei BTP Italia, dei buoni del tesoro italiani, dopo i 16,84 miliardi di ieri. Nella giornata di oggi, chiusa alle 14, sono stati sottoscritti altri 5,43 miliardi di buoni del tesoro. Si tratta di un risultato record questo per i BTP Italia. E seduta rally invece per Pirelli a Piazza Affari, il titolo ha archiviato la giornata più 5,37%, al mercato è piaciuto il piano industriale presentato oggi a Londra. Spostiamoci sulla cronaca con la condanna, anche in appello, per Walter Lavitola per la vicenda della tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. Condanna confermata ma pena dimezzata. Un anno e quattro mesi per Walter Lavitola per la tentata estorsione a Silvio Berlusconi. La Corte d'Appello di Napoli riconosce le attenuanti generiche e per questo dimezza il verdetto per l'ex direttore dell'Avanti, già condannato a 2 anni e 8 mesi in primo grado. La stessa sezione penale stabilisce anche che la custodia cautelare potrà finire il prossimo 2 dicembre. Anche per i giudici d'appello, dunque, Lavitola, mentre era latitante tra Panama e l'America del Sud, cercò di farsi consegnare dei soldi dell'allora premier, con la minaccia tra l'altro di rivelazioni sui giri di escort baresi e sui rapporti con Giampaolo Tarantini. E per la procura una prova poteva essere anche la lettera in cui lo stesso ex direttore dell'Avanti rivendicava risarcimenti per più pratiche, dall'avvicinamento del senatore Sergio De Gregorio, che poi fece cadere il governo Prodi, al dossier sulla casa di Monte Carlo contro Gianfranco Fini. Entrare in Parlamento o almeno nel CDA Rai, scriveva Lavitola per sé, prima di avanzare per altri altre richieste offerte di posti in Finmeccanica o Eni. Raffaella Calandra, Radio 24, Sulle 24 Ore. E ora all'estero torna a essere un giallo la morte di Yasser Arafat. Altamente probabile che l'ex leader dell'OLP sia stato avvelenato. Che sulla morte di Arafat non fosse stata ancora scritta tutta la verità era abbastanza chiaro sin dall'11 novembre 2004, quando il leader palestinese morì in un ospedale alle porte di Parigi a 75 anni, per cause che gli stessi medici non riuscirono a chiarire. La moglie sua dal primo momento aveva parlato di avvelenamento. Ora la conferma o quasi arriva da Ginevra, dove un laboratorio incaricato degli esami ha registrato nel corpo di Arafat un livello di polonio 18 volte superiore alla norma. Conclusione: secondo Ginevra è altamente probabile che il leader palestinese sia stato avvelenato. Per la precisione, secondo gli specialisti svizzeri c'è un 83% di probabilità che sia stato vittima di avvelenamento. Il rapporto di 108 pagine è stato reso noto integralmente da Al Jazeera sul proprio sito web. Sono di nuovo a lutto, ha commentato la moglie Suha. È stato come se mi avessero detto che è appena morto. Riveliamo un vero crimine, un assassinio politico. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Passiamo agli Stati Uniti con il nuovo sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio. Ne parlavamo anche ieri, a poco dalla vittoria, adesso lo è, ha vinto. Compiremo la missione che il popolo ci ha affidato, ha detto, assicurando che si metterà subito al lavoro per costruire un governo progressista, competente e diverso, che combatterà, dice, per il futuro di tutte le famiglie. Il governo francese attacca Ecomove, il consorzio controllato al 70% da Autostrade per l'Italia, incaricato di raccogliere l'ecotassa sui TIR, che sarebbe dovuta entrare in vigore il 1 gennaio. Ma il governo socialista di François Hollande, già accusato di dilettantismo in materia fiscale, si trova adesso in una posizione imbarazzante con Ecomove, che rischia di diventare il capro espiatorio di questa situazione, mentre il ministro dei trasporti Maurizio Lupi si schiera a difesa dell'azienda italiana. Sentiamo allora oggi che cosa ha detto a proposito di questa situazione complicata a effetto giorno. Noi siamo abituati a non intervenire sulle questioni interne degli altri paesi. Devo dire che la dichiarazione che ho fatto anch'io ieri è stata una dichiarazione che innanzitutto ci ha lasciato e ha lasciato il governo italiano molto stupito delle dichiarazioni del ministro. Io sono assolutamente convinto che non sia la posizione e non possa essere la posizione del governo francese, perché ciò che ci ha stupito di più non è ovviamente le discussioni interne al singolo paese sull'applicazione di una tassa o meno, ma sul fatto che il ministro dell'economia si sarebbe dichiarato stupefatto per il fatto che un contratto per la costruzione e gestione del sistema di pedaggiamento per mezzi pesanti sulla rete nazionale sia stato attribuito ad una società straniera. E questo non è assolutamente ovviamente accettabile, nel senso che siamo tutti in Europa, si fanno le gare europee ad hoc, se grazie a Dio abbiamo anche l'Italia ha delle eccellenze che non solo partecipa ad una gara e poi le vince, un conto sono le politiche del governo francese, un conto è il rispetto delle gare europee, del mercato e quindi ovviamente l'attuazione dei contenuti di questa gara. Diamoci adesso al pallone, come spesso in chiusura c'è la Champions, ieri la Juve, ora sotto esame ci sono Napoli e Milan. Per il momento come va questo esame, Dario Ricci? È un esame che forse sarebbe anche valso la pena far iniziare qualche istante prima, Roberta, perché ci sono problemi di ordine pubblico a Napoli. In campo sì, il Napoli è in vantaggio per 2-1 sul Marsiglia, il vantaggio di Andrea Yu per i francesi con un colpo di testa, ma poi la reazione dei partenopei al 22esimo con un tiro da fuori di Inler e al 24esimo con un destro al volo di Higuain. Ma i problemi di ordine pubblico ci sono stati durante l'avvicinamento alla gara, scontri e incidenti fra le tifoserie dell'Olympique Marsiglia e partenopei. C'è stato anche un ferito, un militare della NATO che è stato appunto ferito prima del fischio d'inizio. Incidenti che stiamo seguendo, importanti anche per quello che sarà il futuro cammino europeo del Napoli, perché lo stadio San Paolo è già diffidato, quindi molto molto molto probabilmente, per non dire certamente, la prossima partita casalinga con l'Arsenal si potrebbe disputare a porte chiuse. Solo la prossima? Solo la prossima, invece, Dario? Per il momento sicuramente sì, staremo a vedere, perché gli incidenti sono di un'entità significativa. Va segnalato invece quello che sta succedendo a Barcellona, rimanendo sul campo di gioco, il Milan che schiera titolare Robinho e in panchina Balotelli è sotto di un gol quando siamo alla mezz'ora. c'è stato il calcio di rigore di Lionel Messi a portare in vantaggio i catalani, il fallo di Abate su Neymar che è stato appunto strattonato dal difensore rossonero, rigore, Messi di sinistro centralmente ha battuto Abbiati, quindi un Milan in crisi e sotto di un gol a Barcellona in una partita che potrebbe essere decisiva per il futuro di Allegri. Da sottolineare in chiusura anche prima della gara la stretta di mano tra Gagliani e Barbara Berlusconi, chissà quanto di facciata, Roberto. A proposito di facciate, comunque diciamo che forse un mesetto di chiusura a volte in certi stadi non farebbe male. Per adesso ci fermiamo qui con questa specie di calcio, chiamiamolo così, e poi ci risentiamo dopo la viabilità. Vi ricordo che parleremo di vari argomenti, tra cui anche questa ultima dichiarazione a effetto di Silvio Berlusconi, e potete fare anche i vostri commenti sulla pagina effetto notte trattino Roberta Giordano su Facebook. A dopo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre con voi Roberta Giordano, dopo aver ricostruito la giornata. Allora, vi ricordo ancora i titoli dei fatti principali e poi cominciamo con il primo ospite. La politica italiana, il PD, da lunedì, dopo le polemiche sulle tessere gonfiate, ci sarà uno stop al tesseramento, soprattutto se tutti i candidati sono d'accordo. Berlusconi, per quanto riguarda il PDL, o meglio più la sua situazione personale, dice: i miei figli si sentono come gli ebrei sotto il nazismo e le comunità ebraiche esprimono sdegno. Al processo d'appello la Vitola condannato a 1 anno e 4 mesi, fuori dal carcere dal 2 dicembre. Ci sono nuovi sviluppi sulla morte di Arafat, è altamente probabile che l'ex leader dell'OLP sia stato avvelenato e questo lo rende noto il rapporto di un laboratorio di Ginevra incaricato degli esami. Per quanto riguarda il calcio, questa sera esame di Champions per Napoli e Milan, anche se abbiamo sentito degli scontri selvaggi purtroppo nello stadio di Napoli. E parliamo del primo argomento da approfondire col primo ospite, che saluto, Renzo Gattegna, buonasera. Buonasera. Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, a proposito appunto di questa dichiarazione che è stata estrapolata, no? C'è questo stillicidio in questi giorni dal libro di Bruno Vespa, di varie dichiarazioni che ha fatto Berlusconi, l'ultima è questa: sinteticamente, i miei figli si sentono come ebrei con Hitler, sono tutti contro di noi. Non mi sembra che alle comunità ebraiche italiane questa affermazione abbia fatto tanto piacere, che dice Gattegna. Ma è sembrata veramente incomprensibile, inappropriata, inconveniente, perché sono situazioni. Gattegna, deve stare, l'unica cosa che chiedo, di stare fermo in un punto che dove si sente bene, perché la sento un po' confusamente. Sentiamo. Cambiare posizione. Ecco, così. Stia fermo così, non si muova da lì. Grazie. Sì. Stavo dicendo che sono state messe a confronto e accostate situazioni veramente incomparabili fra loro, sia da un punto di vista storico che giuridico, ma anche di tipo morale, diciamo. La Shoah è stata citata come termine di paragone con una situazione di tipo giudiziario che è in corso in Italia, ma sono due argomenti completamente diversi. La Shoah è stato un tentativo di genocidio, di uno sterminio fisico di un popolo, e non può essere paragonata con una vicenda legata a fatti contingenti che riguardano, diciamo, processi a singole persone, quindi sono veramente incomparabili le due cose. Noi siamo ovviamente impegnati nell'educazione dei giovani sul piano storico, perché riteniamo che sia importante nella formazione dei giovani che la storia venga conosciuta in maniera corretta. Secondo me banalizzare un fatto così grave, una tragedia così enorme come è stata la Shoah, con dei paragoni inappropriati, va totalmente contro quello che è il lavoro che noi stiamo facendo giorno per giorno, anno per anno. Senta, la giustificazione a queste accuse nei confronti di Berlusconi, che non ha mosso soltanto lei o le comunità ebraiche italiane, anche il PD ha detto che è stata un'uscita agghiacciante. Berlusconi si difende rispondendo così, dice: è solo una polemica strumentale, io sono amico di Israele, la mia è stata una frase estrapolata da un ampio contesto. C'è sempre questo problema di strumentalizzazione, di malintesi, no, nelle dichiarazioni, è un classico della politica italiana, forse un po' più diciamo attagliato a cavaliere, no? Come si dice, è un classico dire una cosa e poi, per carità, poi in questo caso lei ritiene che possa essere stata strumentalizzata questa cosa? Ma guardi, io rispondo di quello che è la mia posizione. Io ho criticato in questa occasione una specifica che non è detta, ma che viene riportata. Gattegna, stia fermo però col telefono, la prego, perché sennò si sente molto male. Scusi. Stavo dicendo che io mi sono limitato a criticare il contenuto di una frase che non è stata detta, ma è scritta in un libro. Quindi è scritta in un libro. Non può essere oggetto di fraintendimento, perché è una frase molto chiara e molto precisa. Quindi non è che voglio da questo poi trarre altre conclusioni o altre valutazioni, però sento il dovere di tutelare quello che è il lavoro che le comunità ebraiche stanno facendo sul piano storico, e quindi di intervenire ogni volta che siano affermazioni che invece vanno in senso contrario. Gattegna, scusi, a parte appunto la prego di stare il più possibile fermo, a volte si fa fatica con i collegamenti, ma lei ha provato a chiamare Silvio Berlusconi? Ha provato a telefonare e a cercarlo? No, ho fatto nessun tentativo. Io ho detto questa frase questa mattina e ho pensato che fosse necessario un intervento di valutazione, quantomeno da parte nostra, di questa frase, che è una valutazione negativa, ma questa è negativa su questa frase. Non è che voglio poi estendere questo giudizio ad altre situazioni, a valutazioni di tipo politico, voglio solo attenermi a quello che è il testo e a quelle che sono le frasi che sono state pronunciate. Probabilmente Berlusconi ha un po' una passione per quel periodo storico, non so se si ricorda che all'allora leader del Partito Socialista Europeo Schulz diede del capo, ci fu tutta un'altra polemica, no? Su quella frase. Fu un episodio, diciamo, di portata più limitata, perché fu uno scontro sul piano personale, un'accusa personale fra due persone che stavano in uno stesso consesso nel corso di un dibattito, quindi secondo me quello lì sì, è un termine discutibile quello che è stato usato, ma non chiamava in causa tutta la vicenda ebraica nel corso della Seconda Guerra Mondiale. E non pensa neanche che lei lo chiamerà nei prossimi giorni, Berlusconi? Così per chiarirsi, no, magari. No, il programma di fare telefonate in questo senso. No. Vabbè, se dovesse capitare, insomma, ci aggiorniamo allora magari. Renzo Gattegna, io la ringrazio allora e la saluto. Prego. Grazie, buona serata. Grazie. Adesso c'è la pubblicità, la pausa, poi vorrei leggere, anzi prima della pausa, ecco, sono arrivati diversi messaggi, ma c'è Dario Ricci che ci deve aggiornare su Barcellona-Milan, Dario? Sì Roberta, perché siamo al 42esimo di gioco, il Barcellona pochi istanti fa ha raddoppiato al 39esimo in realtà con un colpo di testa di Busquets, la punizione dalla tre quarti a rientrare di Xavi, difesa milanista Immobile, Busquets di testa ha battuto Abbiati, punteggio ora sul 2-0 e la serata si fa davvero grigia per i rossoneri. Napoli che invece al 42esimo al San Paolo è sempre in vantaggio 2-1 sull'Olympique Marsiglia. 2-1 su Marsiglia. Prima della pausa, dicevo, volevo guardare alcuni vostri commenti sulla pagina Effetto Notte di Facebook. Vela scrive a proposito di questa dichiarazione di Berlusconi: come sempre Berlusconi pensa di essere al centro del mondo, oltre a essere presuntuoso dimostra di non avere il senso della misura e una scarsa sensibilità. Roberto, è davvero una vergogna, è una persona sgradevole. Gianfranco, che a volte dice bisogna rispettare la proprietà bionivoca, dire ciò che si pensa ma anche pensare ciò che si dice. Per Marco è incommentabile. Donata dice: mi fa una bruttissima impressione. Maurizio: siamo proprio alla frutta marcia, aggiunge. E poi altri commenti magari leggeremo dopo pubblicità e ci ritroviamo tra pochi istanti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Riprendiamo allora con i fatti del giorno e prima di affrontare il prossimo argomento vi ricordo quali sono i titoli dei fatti principali. La politica italiana e il PD: da lunedì, dopo le polemiche sulle tessere gonfiate, ci sarà uno stop al tesseramento se tutti i candidati sono d'accordo. Fa discutere l'affermazione di Berlusconi, che parlando della sua situazione dice: i miei figli si sentono come gli ebrei sotto il nazismo. Sdegno espresso dalle comunità ebraiche. Abbiamo sentito poco fa il presidente delle comunità ebraiche italiane. Dal processo d'appello, la Vitola, condannato a 1 anno e 4 mesi, sarà fuori dal carcere dal 2 dicembre. Ci sono nuovi sviluppi sulla morte di Arafat. È molto probabile che l'ex leader dell'OLP sia stato avvelenato. Questo lo dice il rapporto di un laboratorio di Ginevra incaricato degli esami. E poi il calcio: ci sono in campo per la Champions Napoli e Milan. E Dario Ricci ci dice a che punto sono in questo momento, Dario. Oh, finiti i primi tempi, Roberta. Abbiamo un quarto d'ora di tregua, quindi possiamo tirare il fiato. Napoli in vantaggio per 2-1 al San Paolo. Olympique Marsiglia che è andata in vantaggio al 10° con un colpo di testa di Andrea Yu, poi al 22° il destro da fuori area di Inler, al 24° il destro al volo dall'altezza del dischetto di Higuain per il 2-1. Da segnalare, lo ricordiamo, incidenti prima della partita fra le due tifoserie, ferito un militare della NATO nella zona antistante al San Paolo, San Paolo che è a rischio squalifica. Ma si sono fermati gli imbecilli? Sembra di sì, da quello che rilanciano le agenzie, dalle indicazioni che abbiamo dal San Paolo, ma chiaramente è stato danneggiato anche un bus dei tifosi francesi. Su un altro bus di tifosi dell'Olympique sono state trovate delle armi dalle forze dell'ordine, quindi clima sicuramente incandescente, da seguire soprattutto a questo punto anche nel dopo partita, al di là di quello che sarà il risultato sportivo. 2-1, Roberto, e tornando al calcio giocato, anche a Barcellona, perché Barcellona, che dal precedente collegamento, come avete sentito, era in vantaggio per 2-0 per effetto della rete al 30° sul calcio di rigore di Messi e poi il raddoppio di Busquets su colpo di testa al 39°, ebbene, proprio allo scadere del primo tempo, progressione sulla sinistra di Kaká, il cross era sotterra al centro, Piquet devia alle spalle di Valdés e sigla di fatto il 2-1 in un primo tempo comunque dominato dai catalani. Grazie Dario Ricci. Adesso cambiamo argomento. Dal calcio a chi ha la testa nel pallone, si potrebbe dire, ma non sempre, a volte sono ben altri gli impulsi, gli istinti che spingono, che causano gli incidenti. C'è questo rapporto ACI Istat secondo il quale ogni giorno 512 incidenti ci sono in Italia, con 10 morti sulle strade, 723 feriti e un aumento di morti per ciclisti. Allora saluto Lucia Pennisi. Benvenuta, Pennisi. Buonasera. Buonasera, responsabile dell'area tecnica dell'ACI. Allora, io prima le farei sentire questo servizio di un collega del Sole, Maurizio Caprino, che ci fa un quadro di questo rapporto, che lei ovviamente conosce benissimo, e poi vediamo di commentare, al di là dei numeri, qual è la situazione in Italia per quanto riguarda la sicurezza di strade e autostrade. Continua il calo della mortalità stradale in Italia. Nel 2012, secondo i dati ufficiali ACI Istat presentati stamattina a Roma, il numero di vittime è sceso del 5,4% rispetto al 2011, quello dei feriti del 9,3%. Marcato anche il calo degli incidenti rilevati dalle forze dell'ordine, meno 9,2%, ma su questo dato hanno inciso soprattutto crisi e tasse che inducono la gente a ridurre gli spostamenti. Il numero assoluto di morti è ormai di 3.653, contro gli almeno 6.000 a cui eravamo abituati fino a 15 anni fa e che equivalevano al doppio delle vittime di un terremoto come quello dell'Irpina del 1980. Però l'Unione Europea ha fissato l'obiettivo di dimezzare le vittime nel periodo 2011-2020, il che richiederebbe una riduzione annua del 7%, un punto e mezzo superiore a quella che si sta riuscendo a realizzare. Sotto accusa resta soprattutto la circolazione nei centri urbani. I tre quarti degli incidenti avvengono in città e, anche se spesso non sono mortali, ci sono luoghi dove i rischi sono elevatissimi. A Napoli e Venezia la mortalità è doppia rispetto al dato nazionale. Milano, Genova e Bari invece sono sotto la media, ma il capoluogo ligure e quello pugliese sono facilitati dal fatto di avere molte strade strette dove si è costretti ad andare tanto piano che l'incidente mortale diventa quasi impossibile. Maurizio Caprino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora, Lucia Pennisi, innanzitutto, da una parte una buona notizia, che è quella che comunque negli ultimi tempi sono calate le morti, anche se l'Unione Europea ha detto che entro il 2020 devono proprio dimezzarsi. Ma prima di andare a queste cose, mi dice com'è possibile, purtroppo, insomma, che a parte Napoli tutti abbiamo, no, nell'immaginario collettivo Napoli anarchia anche nella guida eccetera, ma Venezia com'è possibile che sia in testa con Napoli per gli incidenti mortali? Beh, Venezia ovviamente si fa riferimento al comune di Venezia quando parliamo, e quindi si tratta della, quindi non parte, è Piazza San Marco chiaramente. Beh, che è pedonale o i canali, non è Piazza San Marco. Quando parliamo di Venezia dobbiamo pensare più a Mestre, alla parte ovviamente che si sviluppa sulla terraferma. Però risulta lo stesso un po' strano. Poi si pensava che, cioè, c'è un po' come esattamente dei dati contrari a quelli che uno si può immaginare. Milano, tutti penserebbero la città del caos, del traffico, no, della congestione costante, degli automobilisti sempre nervosi, isterici, e quindi, no, dobbiamo considerare anche che stiamo parlando di tassi, di indici di mortalità e quindi di morti per incidenti. Questo vuol dire che gli incidenti sono stati gravi a Napoli e a Venezia, però numericamente, magari soprattutto a Venezia, non sono stati molti. Infatti a Venezia abbiamo registrato 541 incidenti contro i 10.000 di Milano. Quindi ci sono più incidenti a Milano, ma più mortali in proporzione sono più a Venezia. A Milano, però quelli a Venezia sono stati in proporzione più gravi, perché in proporzione abbiamo avuto un numero di morti più elevato. Che comunque risulta abbastanza curioso, certo, al numero di incidenti. E questo aumento tra i ciclisti, perché c'è più gente che va in bicicletta o che cosa? Il fenomeno della bicicletta e dell'incidentalità, sì, ai ciclisti sicuramente è legato anche ad un aumento dell'uso della bicicletta, è sotto gli occhi di tutti, lo vediamo, si registra nelle vendite di biciclette che aumentano, quindi sicuramente c'è maggiore circolazione. Però purtroppo sono due anni consecutivi in cui si registra anche quindi un aumento di biciclette coinvolte in incidenti e soprattutto un aumento di morti sulle biciclette. Questo non solo nei centri urbani, ma anche sulle strade statali, sulle strade extraurbane, soprattutto in prossimità dei piccoli centri abitati, dove magari si usa la bicicletta e per gli spostamenti, però su delle strade che sono pericolose perché diciamo sono attraversate anche da molto traffico. Ecco, faccio riferimento per esempio a Milano, no? Ritorniamo sulla città per antonomasia del traffico, ma anche Roma certamente non se la cava meglio, o Napoli, però a Milano con tutti i binari poi dei tram, con il tipo di pavimentazione, anche il pavé, no, che c'è con questi lastroni, certi rialzati, poi magari non coincidono perfettamente quando sono appoggiati l'uno all'altro, insomma i pericoli sono tanti, dico sempre che per andare in bicicletta a Milano una certa dose di coraggio o quantomeno di incoscienza ci vuole. Certamente, e poi bisogna sempre considerare che la bicicletta, il ciclista è un utente debole e quindi andrebbe protetto nel traffico. Siamo indietro con le piste ciclabili, siamo molto indietro in Italia. Siamo, no? Molto indietro con le piste ciclabili, sì, sicuramente l'uso, insomma, l'aumento dell'uso della bicicletta invece dovrebbe sollecitare anche ad uno sviluppo delle piste ciclabili o di sedi riservate ai ciclisti. Senta, invece un'altra nota. Per esempio sulla strada extraurbane abbiamo avuto un alto numero di incidenti di biciclette sull'Adriatica, che insomma, è una strada che attraversa molti centri abitati, e dove la bicicletta è molto utilizzata perché attraversa tutta la costiera della Romagna, delle Marche, regioni in cui si va molto in bicicletta, ma soprattutto d'estate magari. E forse questo è il motivo del perché, leggevo un altro dato, il numero più alto di incidenti nel 2012 c'è stato a giugno. Forse perché si va più facilmente fuori in giro e anche magari appunto con le biciclette? Guardi, sì, il numero più elevato è stato registrato a giugno e anche luglio. Sono stati due mesi in cui solitamente gli incidenti sono piuttosto elevati in quei mesi, anche perché ci stanno gli spostamenti nei weekend. Sì, è più per le strade, insomma. Sia il traffico ancora cittadino durante la settimana, perché siamo ancora quasi tutti al lavoro, sia però si comincia ad andare molto fuori nel weekend e quindi gli spostamenti. Lucia Pennisi, per chiudere e sinteticamente le chiedo, quindi come prevenzione, si è parlato di dati più bassi sulla mortalità, su incidenti rispetto al passato, però per migliorare ancora sinteticamente che cosa si deve fare? Investimenti sulle infrastrutture e sulla formazione dei conducenti. E chi la fa la formazione dei conducenti? Sui giovani, le scuole guida, quindi dei buoni corsi di formazione alla guida, prima ancora la formazione anche nelle scuole, un'educazione stradale ben fatta, e dopo la guida molto spesso si esce dalla scuola guida in cui si ha la patente, si sa guidare un veicolo, però non si è ancora ben consci di tutti del i pericoli a cui si va incontro nel contesto, e anche dei corsi di guida sicura che noi raccomandiamo sempre, perché mettono proprio il conducente di fronte al hanno un solo svantaggio, sono un po' costosi, allora io che cosa devo fare e come mi devo comportare? Dicevo, Lucia Pennisi, per chiudere, l'unico svantaggio sono un po' costosi questi corsi di guida sicura, ecco, se fossero magari un po' più accessibili magari ci accederebbe per l'appunto più gente. Lucia Pennisi, io intanto la ringrazio, le auguro buon lavoro. Grazie a lei, buona grazie, serata. Buona serata. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ce ne sono ancora di argomenti da trattare, ci sono le vostre opinioni sulla pagina Facebook Effetto Notte - Roberta Giordano, però prima, come sempre, dopo ogni pausa, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, io vi ricordo i titoli dei fatti principali. Con la politica italiana, a partire da questa, con il PD che da lunedì, dopo le polemiche sulle tessere gonfiate, dirà stop al tesseramento, e pare che più o meno insomma si cerchino di mettere d'accordo tutti i candidati. Berlusconi parla della sua situazione, dice: i miei figli si sentono come gli ebrei sotto il nazismo. Scattano le polemiche, in particolare le comunità ebraiche esprimono sdegno, abbiamo sentito poco fa il presidente delle comunità ebraiche italiane, Gattegna. Al processo d'appello la Vitola, condannato a 1 anno e 4 mesi, sarà fuori dal carcere dal 2 dicembre. Ci sono, abbiamo detto, notizie nuove sulla morte di Arafat. È molto probabile che l'ex leader dell'OLP sia stato avvelenato, questo lo dice il laboratorio di Ginevra incaricato degli esami. E per il calcio, in Champions ci sono Napoli e Milan. Fino a poco fa il Milan perdeva 1-2 con il Barcellona, mentre il Napoli conduceva sul Marsiglia 2-1. Parliamo adesso di legge elettorale. Qualcuno dirà sempre questa legge elettorale, però per capire quanto è importante la riforma di questa legge, o quanto comunque questa legge incida poi sulla selezione della classe dirigente politica, interpello il professor Marco Revelli. Buonasera, professore. Buonasera. Politologo che insegna scienza della politica all'Università del Piemonte Orientale. Le leggo velocemente, le cito due cose che leggevo oggi, una sul Corriere e una su Repubblica. Su Repubblica si parla della possibile mossa sorpresa della Consulta, cioè della Corte Costituzionale, che dovrebbe passare al proprio vaglio il 3 dicembre la legge elettorale, e potrebbe, secondo queste riflessioni, indiscrezioni, ipotesi, non so bene come definirle, potrebbe cancellare con un colpo di spugna il famoso Porcellum e riesumare il Mattarellum. Poi invece c'è sul Corriere la ricetta del politologo Dalimonte, che pensa a un doppio turno, una legge elettorale a doppio turno e premio al 40%. Fa capire qualcosa a chi non è costantemente dentro questi meccanismi, Marco Revelli, anche che opinione ha lei su una possibile legge elettorale diversa? Ma indubbiamente l'attuale legge elettorale, cosiddetta Porcellum, per l'ammissione del suo stesso creatore Calderoli, Calderoli, che la definì una porcata, è sicuramente una legge fortissimamente mischia, a prescindere dal giudizio della Corte Costituzionale. È una legge riconosciuta da tutti come improponibile in caso di nuove elezioni, quindi dovrà sicuramente cambiare. Il problema è se cambierà per un intervento esterno alla politica, per così dire, per un intervento di una autorità come la Corte Costituzionale, quindi come la Corte, oppure per autodecisione della politica. Che la vedo difficile, la seconda cosa ipotesi. La potrà sostituire dipende da chi prende l'iniziativa. Se l'attuale legge elettorale fosse dichiarata incostituzionale nella sua totalità, allora probabilmente ritornerebbe in vigore la precedente legge, che era il cosiddetto Mattarellum, una legge mista che prevedeva un sistema per il 75% maggioritario con collegi uninominali, un 25% proporzionale, che non aveva dato dei pessimi risultati, sicuramente migliori di questa, che si proponeva di garantire la governabilità e invece ha prodotto ingovernabilità con questo doppio regime tra Camera e Senato, con una Camera con un gigantesco premio di maggioranza e invece un Senato che non riesce a esprimere una maggioranza. A lei piace il doppio turno, di cui parla anche Renzi, per esempio, la Leopolda, lo stesso Dalimonte della Leopolda? Beh, è bizzarra questa questione della legge elettorale da porre a riempire il cratere che lascerebbe l'abrogazione dell'attuale. Perché nessuno è in grado di prevedere con precisione i risultati a cui darebbe origine una diversa legge elettorale. Un modello maggioritario a doppio turno, se ho seguito bene il dibattito, dovrebbe essere tale per cui vi sarebbe una alta soglia tra il 40 e il 50% per accedere al premio di maggioranza. Se non venisse raggiunta da nessuno, i primi due o le prime due coalizioni andrebbero al ballottaggio. Ognuno pensa che potrebbe guadagnarsi qualcosa, soprattutto mi pare il PD scommette su una legge di questo tipo. È sempre piaciuta prima IDS e poi al Partito Democratico l'ipotesi del doppio turno, alla francese per intenderci. Potrebbe essere un clamoroso autogol, però potrebbe essere un grandissimo regalo fatto a una formazione come il Movimento 5 Stelle. Perché in un minuto mi dica? Perché il Movimento 5 Stelle, pescando a destra e a sinistra, nel caso di ballottaggio avrebbe vantaggio nei confronti sia dell'uno che dell'altro, perché prenderebbe da uno e dall'altro gli indecisi, quelli che hanno aspettato il ballottaggio. Se dovesse vedersela con il centrodestra potrebbe ottenere i voti del centrosinistra, se dovesse vedersela col centrosinistra potrebbe ottenere i voti del centrodestra. Sarebbe un grosso regalo. Bene, a questo punto dovremo soltanto vedere, attendere, magari ci risentiremo, perché chissà quando questo avverrà, quando ci sarà questo cambiamento. Grazie professor Marco Revelli. Grazie a voi. Grazie, buona continuazione. E adesso invece mi trovo faccia a faccia con Mauro Meazza, caporedattore centrale del Sole 24 Ore, che ogni tanto mi viene a trovare. Ciao Mauro. Ciao Roberto, buonasera a tutti. Col quale vorrei parlare invece di questa rivoluzione così definita dei medici di famiglia. In cosa consiste? Una cosa dovrebbe riguardare tutti. La rivoluzione che poi illustriamo domani sulle pagine Sole 24 Ore e abbiamo anticipato in parte oggi sul nostro sito, consiste nel passo di attuazione della riforma cosiddetta Balduzzi, che prevede in due parole che i medici di famiglia debbano essere sempre reperibili 24 ore su 24, 7 giorni non su 7. Non dormono praticamente. Ecco, ovviamente, siccome anche loro, come tutti noi, devono dormire, devono riposarsi, si prevede che ci sia una lavorazione, una messa a disposizione associata dei medici di famiglia, che quindi dovranno in qualche modo strutturarsi, associarsi. La cosa importante, quello che è successo, quello che anticipiamo, è la bozza praticamente della riforma. Questa bozza ora dovrà essere discussa con le regioni, perché in materia di sanità le regioni sono comunque competenti e naturalmente con le stesse categorie. Questo per precisare che non vedremo questa riforma domani l'altro, ci vorrà ancora qualche passaggio, non sappiamo dire se nell'ordine delle settimane o di più, però è stato fatto un grosso, un importante passo avanti. Il ministro stesso si è spesa oggi, appunto, per dire, sì, per cercare di appunto coinvolgere il più possibile i medici in questa rivoluzione. Quindi per gli utenti ci sono aspetti positivi, quindi. Dovrebbe tradursi in un aspetto molto positivo, perché come sanno chiunque, come chiunque di noi abbia avuto necessità di un medico, sì, del proprio medico durante il weekend, si finisce per essere sempre dirottati al pronto soccorso. E lì non stiamo a dire le ore, le giornate che si passano al pronto soccorso, certo, se non hai la testa tagliata. Certo, perché ovviamente il pronto soccorso deve attribuire dei codici, delle priorità, delle urgenze, quindi se uno va per un malanno magari importante, una bronchite, che so, una febbre alta, però chiaramente risulta in coda rispetto ad altri eventi che possono essere più Fausti. E questa riorganizzazione dell'assistenza sanitaria di base sul territorio dovrebbe servire proprio anche a ridurre la pressione sui pronto soccorso. Abbiamo proprio 30 secondi, 32, non so se i medici sono contenti di questo, ancora non abbiamo interpellato. I medici vogliono discutere nei dettagli, perché c'è anche una regolazione diversa dei compensi, quindi i medici vogliono vedere nei dettagli che cosa cambierà per loro. Grazie Mauro Meazza. A voi. Ciao, noi ci sentiamo tra poco.